La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al libro La Repubblica delle Stragi Impunite, i documenti inediti dei fatti di sangue che hanno sconvolto il nostro paese, di Fernando Imposimato, presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione, oggi ospite ai nostri microfoni. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alla scoperta del metodo scientifico, che dopo il fuoco, la parola scritta e l'agricoltura, è forse il più grande dono dell'umanità ai posteri. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. È una lunga e inquietante storia quella delle stragi avvenute nel nostro paese dal secondo dopoguerra in poi. Dalla strage di Portella della Ginestra del maggio del 1947 per arrivare a Piazza Fontana, e siamo al dicembre del 69, e poi a Piazza della Loggia il maggio del 74, la strage del treno Italicus dell'agosto di quello stesso anno, poi via Fani, marzo 1978, la strage della stazione di Bologna, agosto del 1980, della Daura, giugno 1989, e ancora Capaci, maggio 1992, via D'Amelio, luglio 1992. Una storia che ha origine negli eventi accaduti alla fine della Seconda Guerra Mondiale con lo scontro tra due blocchi contrapposti. E quanto scrive Ferdinando Imposimato nel libro La Repubblica delle Stragi Impunite, i documenti inediti dei fatti di sangue che hanno sconvolto il nostro paese, appena pubblicato da Newton Compton. L'Italia, osserva Imposimato, avvocato penalista, magistrato, presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione, è stata in prima linea come terra di frontiera, un vero e proprio laboratorio, ove sperimentare le diverse strategie portate avanti dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica. Il nostro paese, nella spartizione a Yalta, divenne una sorta di colonia americana, una nazione a sovranità limitata, a causa dell'interferenza d'oltreoceano. Con la caduta del fascismo iniziava la guerra non ortodossa contro la democrazia italiana per impedire il formarsi di nuovi equilibri. Durante la sua carriera il dottor Imposimato è stato giudice istruttore in alcuni dei più importanti casi di cronaca degli ultimi anni, tra cui il rapimento di Aldo Moro, l'omicidio di Vittorio Bachelet, l'attentato a Giovanni Paolo II. Buonasera, dottor Imposimato. Buonasera, buonasera. Ascoltiamo insieme, prima di tutto, questo passaggio che abbiamo tratto dall'introduzione del suo libro. Questo libro non è condizionato dall'esito dei processi, che quasi mai rispecchiano la realtà. Occorre cercare di ricostruire gli eventi, anche quando sono rimasti ignoti gli autori delle stragi. Ho utilizzato i documenti dei processi, delle commissioni parlamentari sulle stragi e sul terrorismo, sulla P2, sul caso Moro, gli archivi del Senato e della Camera, e un archivio nascosto di Palazzo Giustiniani, in cui per decenni sono stati conservati e di fatto occultati atti non coperti da formale segreto di Stato, riguardanti alcune circostanze particolari della nostra storia recente, ad esempio il luogo di detenzione di Aldo Moro, che in teoria non fu mai individuato ufficialmente, ma anche le testimonianze di alcuni dei protagonisti politici di questa storia, Cossiga, Andreotti, Saragat, Terracini, Rumor, Forlani, e soprattutto sulla testimonianza di Aldo Moro, la cui lucidità fu riconosciuta dai suoi stessi avversari. Le sue analisi sulla responsabilità di parte della Democrazia Cristiana nelle trame che hanno scandito la vita della Repubblica sono essenziali. Egli osservò, pur nelle difficoltà estreme della sua prigionia, un assoluto rispetto dei fatti e delle persone, dimostrando coraggio di fronte alla morte che vide imminente e inevitabile, e colse l'isolamento in cui era stato ridotto per i tradimenti dei compagni di partito e le falsità e i silenzi della stampa. Dottor Imposimato, lei indaga sulla cornice e la continuità tra le stragi, i tentativi golpisti, gli assassini selettivi di alcuni magistrati, compresi quelli in cui morirono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Tutti eventi, lei scrive, che ebbero come scopo comune quello di cambiare gli assetti istituzionali in modo violento. Eccoci, spieghi un po' meglio questo passaggio che a me appare decisivo del suo libro. Io credo che si possa affermare che esistano le prove di questo collegamento tra Piazza Fontana e la strage di Via D'Amelio. Questo collegamento è rappresentato dalla presenza di una stessa organizzazione sovranazionale e nazionale che si chiama Glavio Stay Behind, che era un'organizzazione di cui faceva parte la CIA, che aveva funzioni dirigenti, diciamo, poi facevano parte anche i servizi segreti italiani, e assieme ai servizi segreti italiani le organizzazioni come Ordine Nuovo, la mafia e purtroppo anche uomini politici della Democrazia Cristiana e esponenti della massoneria. Ecco, questo insieme di soggetti ha fatto parte di questa struttura sovranazionale, la quale ha agito senza soluzione di continuità a partire dal 1950 fino almeno al 1994. Sì. Quando ci sono state le stragi mancate dell'Olimpico. E basti dire, per esempio, che un fatto abbastanza singolare, cioè sia nella strage di Capaci e in quella di Via D'Amelio che nella strage di Piazza Fontana hanno operato esponenti di Ordine Nuovo. Infatti a Piazza Fontana hanno operato, secondo quello che ha detto la Cassazione nel 2005, la quale ha riconosciuto che è stato un errore la loro assoluzione, hanno operato Fred Avventura, che erano esponenti di Ordine Nuovo del Veneto, mentre nella strage di Capaci, per esempio, ha operato un elemento di Ordine Nuovo che era in Sicilia, che si chiama Pietro Lampulla, che è stato condannato all'ergastolo per la strage. Sì. Di Capaci. Ora, già questo fatto è abbastanza singolare, cioè che in una strage di mafia si inserisce come esperto di esplosivo, che era poi quest'uomo era collegato con i servizi segreti, un uomo come Pietro Lampulla, dimostra in maniera plastica questo filo conduttore che lega le varie stragi, a parte il fatto che in tutte queste stragi c'è stato l'uso di esplosivo, che sicuramente non era nella disponibilità della delinquenza comune, ma si tratta di esplosivo della NATO, di uno speciale tipo di esplosivo che soltanto la Gladio aveva e di cui disponeva in varie parti d'Italia. Ecco, dottor Imposimato, il suo racconto in qualche modo prende corpo a partire dalla rievocazione della strage di Piazza Fontana, che lei scrive nella prefazione segnò uno spartiacque nella vita italiana degli ultimi 40 anni. Per tanti aspetti si può parlare di un prima e di un dopo Piazza Fontana. Allora, questo collegamento con gli eventi politici, fu un caso che Piazza Fontana, lei si chiede, seguì a un governo con i socialisti? Cioè praticamente c'era dietro un atto intimidatorio contro alcune forze? Non c'è alcun dubbio che tutte le stragi hanno avuto questo collegamento con eventi politici importanti. Infatti la strage di Piazza Fontana avviene dopo che con Mariano Rumor forma un governo con i socialisti, che era considerato come un governo filo comunista, e quindi Moro percepisce immediatamente il nesso tra questi eventi. Quando egli si trovava a Parigi, Moro era considerato pure lui un personaggio filo comunista ed era ministro degli esteri in questa compagine governativa. Così pure le altre stragi sono avvenute sempre per fini intimidatori alla vigilia della formazione di nuovi governi. Basti pensare che lo stesso attentato a Mariano Rumor è avvenuto nel 1973, è un attentato contro colui che era considerato responsabile assieme a Moro di una politica di alleanze con i governi di centrosinistra. Quindi questa connessione io ho cercato di spiegarla proprio punto per punto e sì, data per data, uomini per uomini, non c'è alcun dubbio che queste stragi sono state uno strumento di lotta politica, come ha detto Aldo Moro in più di un'occasione nelle sue lettere, una parte della Democrazia Cristiana, quella parte che viene definita di destra, era schierata a favore di certi attentati, di certi atti di terrorismo, cosa che del resto risulta da alcuni documenti che sono stati trovati in una cassetta di sicurezza di a Montebelluna, dove si dice che bisognava intensificare gradualmente le stragi e gli attentati in attuazione di un piano preciso che vedeva coinvolto anche i servizi segreti stranieri e forze della massoneria, forze conservatrici che esistevano in Italia e all'estero. Ecco, ma quali effetti hanno prodotto queste stragi? Allora, se le guardiamo ex post, diciamo. L'effetto prodotto è stato molto semplice, che non è stato possibile spesso attuare i ricambi che si voleva attuare, cioè c'è stato un rafforzamento della parte conservatrice del potere. E non ci sono stati ovviamente colpi di Stato. Il colpo di Stato è consistito nel fatto di mantenere dei regimi in maniera permanente durante tutto il periodo che va dal 1969 fino a quando poi le cose non sono cambiate, ma insomma queste stragi hanno avuto come scopo quello di rafforzare il potere, tant'è che si diceva destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare il potere politico. Questa è la sintesi estrema che poi viene espressa da più di un terrorista nel corso delle proprie confessioni. Nel 1982 io ebbi modo di ottenere la confessione di un terrorista che si chiamava Paolo Aleandri, che mi confessò queste cose che a me sembravano per la verità fantascientifiche, alle quali non volevo credere, però io le registrai. Poi ho trovato che tutti gli interrogatori di Paolo Aleandri, che era uno studente universitario che aveva messo una bomba al Consiglio Superiore della Magistratura e che incontrava Licio Gelli due volte alla settimana, quindi era un terrorista che incontrava il capo della P2, ecco, questo Aleandri aveva descritto dettagliatamente quali erano le alleanze che erano dietro esponenti di Ordine Nuovo. Ecco, questo Aleandri era un uomo di Ordine Nuovo, quindi vediamo che Ordine Nuovo, benché sciolta a seguito di un decreto del Ministro dell'Interno, ha mantenuto la sua forza, la sua capacità di attacco notevole. Un'ultima cosa voglio far notare, sì, che esiste in via Sicilia, questa è stata una scoperta che mi ha sbalordito, la presenza di strutture che erano della CIA, dell'OSS, di Gladio, dell'Ordine Nuovo e della Massoneria, contemporaneamente, cioè nella stessa via, a distanza, a stretto contatto di gomito, talvolta anche in maniera simultanea nello stesso luogo, hanno agito questi soggetti che erano parte essenziale della Gladio, stay behind, stare dietro. Quindi in questo c'è un capitolo molto preciso con tutti gli indirizzi che dimostrano questi indirizzi la contemporanea presenza di quelli che sono stati i protagonisti della strategia dell'attenzione. E la stessa bomba alla Banca Nazionale del Lavoro in via Bissolati è stata messa a pochi metri di distanza da via Sicilia. Ecco, questo credo che se si legge questo capitolo di via Sicilia, in cui coesistono tutte le forze eversive che hanno partecipato alla strategia dell'attenzione, ci si rende conto che siamo in presenza di un'organizzazione potentissima, ma in cui i collegamenti sono plasticamente dimostrati da queste presenze in questo stesso luogo. Grazie dottor Imposimato, e buona serata. Grazie a lei. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della Storia e la Memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alla messa a punto del metodo scientifico. Siamo nella seconda metà del 600. Le osservazioni astronomiche dell'inglese John Flamsteed e i viaggi di uno dei più grandi esploratori dell'umanità, il capitano James Cook, danno avvio a una nuova concezione del mondo. La paura e la superstizione vengono rimpiazzate dalla ragione. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 23 dicembre, alle 23, su History Channel. L'umanità entra in una nuova era. Scoprendo gli organismi unicellulari e i segreti del battito cardiaco. Per la prima volta ci rendiamo conto della forza di gravità e dimostriamo che la Terra orbita intorno al Sole. James Makes, redattore capo della rivista Popular Mechanics. Dopo il fuoco, la parola scritta e l'agricoltura, il metodo scientifico è forse il più grande dono dell'umanità ai posteri. Flamsteed ha costruito il suo quadrante in 14 mesi. Uno strumento mosso da un sistema di ingranaggi di precisione che misura l'angolo delle stelle nel cielo notturno. Il re investe nel progetto, ma i fondi si esauriscono. Flamsteed spende tutti i suoi risparmi per dare vita al suo sogno, l'equivalente di quasi 200.000 euro. Con 28.000 misurazioni, Flamsteed registra ogni stella e la sua esatta posizione in modo univoco e triplica il numero di astri conosciuti, portandolo a quasi 3.000. È la più grande svolta nella navigazione dopo la bussola. Mappe celesti 15 volte più accurate di prima, che fanno risparmiare soldi e vite umane. Sam Sheridan, scrittore. Flamsteed è un eroe. Cambiò irrevocabilmente il mondo con queste misurazioni accurate. È come se i marinai fossero passati da una mappa rudimentale tracciata a mano a una foto satellitare, una bella immagine fornita dal GPS. Nuove misurazioni che un giorno aiuteranno l'uomo ad arrivare sulla Luna. James Makes, redattore capo della rivista Popular Mechanics. Spesso, pensando al progresso scientifico, pensiamo al momento del aha, dell'intuizione. Non ci rendiamo conto che gran parte della scienza è lavoro duro e costante, e Flamsteed ne è il massimo esempio. Ora la scienza apre una nuova era di esplorazione. Il capitano James Cook, il più grande esploratore dell'umanità. Sam Sheridan, scrittore. Il viaggio di Cook si basò sulle osservazioni di Flamsteed, senza il quale non sarebbe riuscito a fare ciò che ha fatto. Un terzo del mondo inesplorato, fino ad ora. In tre viaggi Cook raggiungerà alcuni degli angoli più remoti del pianeta e aprirà le porte di un nuovo continente. James Makes, redattore capo della rivista Popular Mechanics. I viaggi di Cook ci mostrarono che aspetto aveva il mondo realmente. Non ci furono più vaste aree delle mappe ritenute completamente inesplorate. A bordo dell'Endeavour, un equipaggio di 74 uomini che vivono su ponti più bassi di 1,20 m. In un'epoca in cui metà dei marinai muore di malattia, attraversano un oceano inesplorato che copre un terzo del pianeta. Il Pacifico. Adesso, dopo 20 mesi in mare, Cook e il suo equipaggio sbarcano in un nuovo e misterioso continente. L'Australia. Gli aborigeni d'Australia si sono insediati nel continente 50.000 anni fa. La cultura vivente più antica del mondo. 250 lingue, 600 dialetti. Inventano l'ascia affilata 15.000 anni prima degli europei. Cook rivendicherà la loro terra per l'impero britannico. Ma quello che Cook e i suoi uomini scoprono è un ecosistema senza eguali. L'isola più grande della Terra. Un continente con un'evoluzione unica. L'85% dei suoi mammiferi non si trova in nessun altro posto del pianeta. A documentarlo, un uomo che diventerà uno dei botanici più importanti del mondo, Joseph Banks. Giovane, ambizioso, imbarcato nell'avventura di una vita. La nuova scienza della botanica, di cui lui è un pioniere, svela i segreti del mondo naturale che aiutano l'umanità ancora oggi. James Makes, redattore capo della rivista Popular Mechanics. Joseph Banks era come una rockstar della scienza. Era una grande celebrità ed ebbe questa vita affascinante attraverso gli oceani, catalogando popoli nativi, specie interessanti, scoperte. E quando tornava in Inghilterra, teneva conferenze che erano popolari come un moderno concerto rock. Nella spedizione Banks raccoglie oltre 30.000 piante. La scienza conosce ora il 25% di specie di piante in più. Più campioni nell'arco della sua vita di qualsiasi altro botanico. James Makes fece queste esplorazioni per amore della scoperta, non per un ritorno economico, e aiutò a diffondere in Europa l'idea che la scienza fosse fine a se stessa. Non doveva necessariamente essere al servizio del commercio per essere importante. Dopo una settimana in Australia, l'Endeavour salpa per l'Inghilterra, portando un carico insostituibile. Animali e piante sconosciuti alla scienza. Davanti a sé un viaggio di oltre 30.000 chilometri. Ore 23. 5 settimane di viaggio. A 39 chilometri dalla costa, l'Endeavour urta una secca. Al largo della costa australiana, il più grande esploratore dell'umanità lotta per salvare la sua nave danneggiata. Se Cook non la rimetterà a galla, la secca spaccherà lo scafo. Pochi marinai sanno nuotare. Sam Sheridan, scrittore. È tremendo. C'è una collisione, scoppia il caos. La nave scricchiola sulle rocce. È una questione di tempo. Se non fanno galleggiare presto la nave, moriranno. Per rendere la nave più leggera e riportarla a galla, gettano in mare oggetti personali. Cannoni, barili, zavorre. Perfino l'acqua potabile. Solo i preziosi campioni scientifici vengono salvati. Sam Sheridan, scrittore. Non ci sono soccorsi in arrivo. Sei completamente solo, isolato. È come se ci trovassimo su Marte e la nostra navicella si rompesse. Le nostre possibilità di sopravvivenza sono minime. È una cosa spaventosa. Ventitré ore dopo, l'alta marea aiuta la nave a liberarsi. Sotto di loro un labirinto di 2250 chilometri. La grande barriera corallina. Una delle meraviglie del mondo naturale. La struttura vivente più grande della Terra. L'unico organismo visibile dallo spazio. In 3 viaggi epici, Cook mappa l'Australia, la Nuova Zelanda, l'Oceano Pacifico e le Americhe. Più aree del pianeta di qualsiasi altro esploratore. Mentre Cook espande i confini del pianeta, dall'altra parte del mondo un inventore americano gioca con il fuoco e porta in America la rivoluzione scientifica. Benjamin Franklin. Innovatore, imprenditore e il primo cacciatore di tempeste d'America. Si serve di un giocattolo per scoprire una delle chiavi per il futuro. Brian Williams, NBC Nightly News. Credo che il suo ruolo di scienziato sia importante quanto quello di statista e di fondatore. Fu anche il primo americano a rendere la scienza palpabile, tangibile per il suo popolo, grazie al modo in cui ne parlava e ne scriveva. Fin dagli albori dell'umanità, l'uomo è vissuto nella paura di una delle più distruttive forze della natura. Il fulmine. Nel mondo ogni anno 16 milioni di tempeste di fulmini uccidono migliaia di persone. Ogni scarica ha la potenza di una tonnellata di tritolo, con una temperatura di 28.000 gradi centigradi. È 5 volte più caldo della superficie del sole. È la battaglia tra superstizione e scienza che caratterizza l'epoca. Benjamin Franklin è in cerca dei segreti del fulmine e contribuisce al primo passo verso il nostro mondo elettrico. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Mankind, la storia di tutti noi, per la regia di Nick Brown e Dan Clifton, titolare dei diritti AETN, casa di produzione Nutopia. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 23 dicembre, alle 23, su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.